Radio Onda Rossa 87.900 e dunque dicevamo dello sgombero che c'è stato ieri mattina alla Fornace. I compagni però si sono presto organizzati a partire dal corteo che si è svolto ieri sera, ma insomma di novità ce ne sono tante, ce le racconta una per una Andrea che ha il telefono con noi. Ciao Andrea. Ciao, ciao. Sì, ieri sera avevamo indetto un presidio che è stato molto molto partecipato davanti al comune con un migliaio di persone, che poi è diventato insomma un corteo che è partito dalla piazza del comune, ha fatto il giro della città e si è concluso di fatto con una nuova occupazione in un'area verso il polo fieristico europeo, verso l'area Expo, un'area dismessa da anni, che è l'ex MTM, una palazzina su cui c'era un progetto di fare un commissariato di polizia. Questo progetto del centrodestra che ormai è naufragato, perché questa mattina poi è successo un altro fatto, che sono state le dimissioni in massa di consiglieri comunali dell'opposizione e di un pezzo di quelli del PDL, per cui è caduto il sindaco e a questo punto si andrà a elezioni. Quindi diciamo tra ieri sera e questa mattina la risposta è stata molto forte, insomma dopo lo sgombero noi siamo caduti in piedi e il sindaco invece è caduto del tutto. Insomma, questa è chiaramente una bella notizia, possiamo senz'altro dire così. Intanto la Fornace è stata rioccupata, no? Sì, certo, diciamo che questo spazio ha caratteristiche diverse da quelle che aveva lo spazio precedente, però insomma una bella palazzina di 4 piani in cui tutte le nostre attività si potranno svolgere anche a partire dagli stati generali settimana prossima. E in sostanza diciamo, nonostante lo sgombero, l'abbattimento dei capannoni, è stata immediata l'occupazione, per cui chiaramente adesso ci dobbiamo riorganizzare, perché abbiamo perso molto del nostro materiale, però insomma c'è tutto l'entusiasmo, diciamo, per ripristinare la situazione come era prima in brevissimo tempo. Senti Andrea, questa insomma ha tutta l'aria di essere una battaglia almeno per il momento vinta, nel senso che nei confronti della giunta comunale voi avete proprio agito da veri oppositori e alla fine possiamo dirlo, insomma lo sgombero che c'è stato alla Fornace è stato proprio il preludio alla caduta insomma del sindaco. Di fatto, quindi, in un modo o nell'altro possiamo leggere questo evento anche come il portato di tante contraddizioni di questa giunta da un punto di vista politico, ma anche come il portato di lotte che si sono avute, in cui sicuramente voi come spazio avete avuto un ruolo da protagonisti, a partire dalla vicenda legata all'area dell'Alfa Romeo. Insomma, un bilancio da questo punto di vista può essere fatto e credo sia positivo in questo momento per voi, no? Sì, credo che hai detto benissimo, perché noi ci siamo caratterizzati fin da subito come il fulcro della protesta No Expo, per cui diciamo da quando Zucchetti, delfino di Formigoni, quindi legato all'area CL, è diventato sindaco di Roma, lui ha spinto nella direzione delle grandi opere, della realizzazione di megacentri commerciali, alberghi. E su ciascuna di queste questioni noi abbiamo aperto vertenze e in tutte le vertenze abbiamo vinto fino adesso. Molto probabilmente questa è anche la causa dello sgombero, che forse a questo punto è molto probabile che non dipendesse più dal sindaco, ma addirittura le pressioni potevano arrivare da Formigoni, perché chiaramente sicuramente gli abbiamo dato molto fastidio per la vertenza dei treni dello scorso anno, che erano stati tolti dalla città di Roma per spostare la fermata in fiera, sui quali avevamo raccolto 7.000 firme di cittadini, e chiaramente quello era un segnale anche del fatto che l'Expo non deve togliere diritti e servizi alla città, ma al contrario ne deve portare di più. E poi tutta la vicenda dell'Alfa con il megacentro commerciale, per cui si cancellava diciamo gli ultimi lavoratori rimasti nell'area Alfa per fare una speculazione edilizia, e questo megacentro commerciale che poi andava a rovinare il commercio locale, quindi ha visto anche l'opposizione dei commercianti. diciamo l'unica realtà che ha fatto poi un'analisi complessiva delle trasformazioni del territorio e che le va ad applicare in ogni vertenza, inserendole in un contesto che diciamo rende un quadro chiaro della situazione, siamo noi, per cui probabilmente da tempo siamo riusciti a capire quali sono le chiavi di lettura delle trasformazioni del territorio e interpretare i bisogni dei cittadini di questo territorio. Insomma, un'azione di forza che si è rivelata un vero e proprio boomerang. D'altra parte, il sostegno della cittadinanza rodense a voi non vi era mai mancato, anche perché in alcune vertenze in cui lavoratori di ditte subappaltate, insomma, proprio nell'ambito dell'Expo, erano già state condotte e portavano il segno di questo consenso che nei vostri confronti la cittadinanza non ha mai mancato di esprimere. Immagino si sia visto anche nella giornata di ieri, no? Sì, sì, beh, diciamo che poi l'ultima vertenza aperta importante è quella dei lavoratori della fiera. Lì chiaramente non stiamo parlando dei precari a 800 euro al mese, ma di lavoratori, cioè di impiegati che erano, avevano il posto fisso, che guadagnavano anche 2000 euro al mese, per cui anche lì stiamo guadagnando piano piano la fiducia, e però hanno visto nella fornace, siccome appunto ci sono stati questi tagli di personale di fiera, avallati poi dai sindacati confederali, e si sono alla fine rivolti a noi questi, a parte di questi lavoratori che appunto in questo momento rischiano di perdere il posto di lavoro. Ieri non erano fisicamente con noi, chiaramente, però è anche un po' il segnale del fatto che diciamo non andiamo a raccogliere il dissenso soltanto delle classi sociali tradizionali a cui puoi fare riferimento, ma che a questo punto sulla questione dell'Expo diventa un dissenso diffuso anche su altre classi sociali, come possono essere i commercianti o impiegati, che di fatto vengono precarizzati anche loro dalle dinamiche che si stanno creando su questo territorio. Per cui possiamo dire con certezza che da qui al 2015 comunque se ne vedranno delle belle, sta crescendo il dissenso su questo territorio. Insomma, chissà se proprio questi ultimi fatti non possono diventare una vera e propria fucina che potrebbe consentire davvero di costruire un'opposizione ancora più vasta nei confronti dei progetti speculativi all'origine di questa Expo 2015. Nel frattempo, come tu dicevi poco fa, l'appuntamento degli stati generali della precarietà previsti per metà gennaio è un appuntamento che è mantenuto, si svolgerà sempre comunque a Rho, e questo sicuramente, insomma, è un primo passo. Insomma, la mobilitazione contro la precarietà non si ferma, non l'hanno fermata gli sgomberi e la polizia, e quindi si va avanti, Andrea. Sì, sì, certamente, anche tra l'altro la campagna elettorale poi sarà per noi occasione per far sì che le tematiche che abbiamo portato in città in questo periodo vengano poi anche, diciamo, acquisite nei programmi delle forze politiche che si presenteranno alle elezioni, perché di fatto il dissenso che si è creato e che abbiamo trascinato è tale per cui credo che diciamo il modello della città vetrina, almeno a Rho, è stato rigettato in questi anni in modo diffuso, e quindi a questo punto diciamo almeno su Rho andrà un po' ridisegnato anche da chi gestisce il potere un progetto quantomeno un po' diverso da quello che avevano in mente all'inizio. D'accordo, allora Andrea, noi ci risentiamo a presto, sicuramente in vista delle giornate di dibattito previste per metà gennaio. Il nostro caloroso saluto da Roma, insomma, grazie, un abbraccio a voi. Ciao, ciao, grazie. Ciao.